Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo da alcuni aggiornamenti importanti, vicenda pedaggi autostradali, insomma, e del raccordo anulare e delle strade gestite direttamente dall'ANAS, insomma, sta capitando un po' di tutto. Poi anche i dati in apertura sul debito italiano che è peggiorato, ma anche sulle entrate fiscali che sono calate, come effetto però di un raffronto con delle una tantum che c'erano nel periodo dell'anno scorso preso in considerazione. Sono andate bene invece le entrate dovute al contrasto all'evasione fiscale e non così bene complessivamente le entrate fiscali, anche al netto di quelli che erano ingressi, entrate eccezionali l'anno scorso, c'è un calo dell'1%, 1,3%. Poi parleremo sempre in merito alla cronaca italiana dello sciopero dei benzinai, perché c'è un tentativo in extremis, anche se in Sicilia le pompe hanno già chiuso, un tentativo in extremis di arrivare a un accordo, scongiurare lo sciopero che altrimenti inizierà domani mattina. Per quello che riguarda poi la rete autostradale e la rete stradale, sono un po' diversi gli orari decretati. Oggi, tra l'altro, in Sicilia è chiuso oltre il 90% degli impianti, ma in sostanza quello che succederà è che in autostrada dalle 22, se non arriveranno novità, saranno chiuse le pompe di benzina domani fino a sabato mattina, e domani mattina nel resto del paese, quindi voi capite anche il disagio possibile. 25.000 gestori, 75.000 addetti, queste le cifre del settore. Ne parleremo in apertura. Poi, come sempre, i mercati finanziari che sono adesso hanno girato anche leggermente in positivo, più 0,1% Milano, più 0,3% Parigi, più 0,2% Francoforte, più 0,1% Londra, più 0,2% l'America. Viaggiavano leggermente in negativo, meno 0,4% come media. Oggi fa notizia soprattutto l'euro, che è vicinissimo, praticamente l'ha già raggiunta a quota 1,30. E quindi nuovo indebolimento del dollaro. Chi sta guadagnando in borsa oggi? Beh, soprattutto Ansaldo, più 2,2, Fiat, più 1,5, come Pirelli e anche Telecom Italia. L'1,2 lo guadagna Stima Microelectronics e Parmalat, lo 0,90 Azimut e Mediaset, lo 0,80 il rialzo delle CIR. Fronte opposto, Fondiaria, meno 1,80, Italcementi, meno 0,80, Ubibanca, meno 0,70, Unicredit, meno 0,6, Eni, mezzo punto percentuale di calo, come Tenaris. Ancora, parleremo nella seconda ora del programma di Prato. Perché torniamo su Prato? Perché ieri è uscito questo articolo del New York Times firmato da Prato, che raccontava il danno che sta facendo il Made in China fatto a Prato al Made in Italy. Lo dicevano non i pratesi, ma appunto l'inviato del New York Times. E ormai praticamente è difficile distinguere la differenza, e quello che viene prodotto a Prato dai cinesi ha danneggiato la qualità e la capacità anche di riconoscere il Made in Italy per la sua qualità. Accuse molto grosse, anche perché arrivano dall'America. Sarà l'occasione per parlarne. Già ne abbiamo parlato dei problemi che ha Prato, che è il più grande distretto di cinesi d'Europa come numero, come insediamento. Già dicevo, ne abbiamo parlato con il sindaco, con il presidente degli industriali. Oggi ne parleremo con uno scrittore che è un ex imprenditore. L'azienda ha chiuso, l'azienda di famiglia ha chiuso, schiacciata dalla concorrenza cinese, dalla globalizzazione. Lui ha scritto un paio di libri, uno bellissimo, l'ultimo, Storia della mia gente, Edoardo Nesi, in cui ha raccontato il dolore, la sofferenza, la rabbia e l'orgoglio, per parafrasare la Fallaci, con cui loro hanno cercato di resistere, che cosa non ha funzionato in questo meccanismo di globalizzazione che li ha letteralmente stritolati, chiedendo anche di poter, o rivendicando un diritto a una morte industriale e imprenditoriale più dignitosa, con maggior orgoglio, lottando di più e non solo chiudendo, perché ormai tutte le pezze di tessuto arrivano dalla Cina dopo l'ingresso della Cina nella WTO. È un libro pieno appunto di stomaco, di pancia e non solo di ragione. E allora ogni tanto cambiamo anche il profilo degli ospiti. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo già un messaggio che dice in Sicilia le pompe di benzina sono aperte. Ne prendiamo atto, per carità. Oggi Martino Landi, che è il presidente della FAIB Confesercenti, cioè l'associazione di categoria, aveva dichiarato che in Sicilia ha chiuso già il 90% degli impianti e voglio dire, questo come adesione. Dopodiché vedremo, probabilmente in alcuni casi non è stato così. Detto ciò, l'ultima parola si avrà tra poco, infatti faremo un collegamento a breve, perché se non si arriva a un accordo nelle prossime 2-3 ore, alle 22 scatta lo sciopero. Sì, ci chiedete anche del veto dell'Italia sull'ingresso della Corea del Sud, sugli accordi europei con la Corea del Sud, l'importazione delle merci. Ne parleremo nella seconda ora, perché il tema è, diciamo, come non ripetere l'errore che abbiamo compiuto abbracciando la globalizzazione in maniera un po' sconsiderata, non, diciamo, non ragionando su come era fatto il nostro modello di impresa e che danni avrebbe fatto una globalizzazione così senza limiti. E tra l'altro devo dire che giustamente viene fatto notare che Germania e Francia hanno difeso a spada tratta i loro modelli produttivi, i loro modelli industriali, le loro piattaforme manifatturiere. Noi invece abbiamo lasciato i piccoli distretti un po' soli, possiamo dirlo, di fronte alla Cina, di fronte all'India, di fronte a questa ondata di merci che è arrivata negli ultimi 10 anni. E ce n'è anche per alcuni economisti, ne parleremo, economisti che sono spesso anche nostri ospiti, ma insomma tutti a teorizzare solo i benefici dell'apertura del mercato per i consumatori, dimenticandosi che i consumatori sono anche dipendenti, operai, lavoratori, segretari, impiegati, e si chiudono le fabbriche poi consumi poco, diciamo. Ancora, vediamo i conti italiani. Oggi il petrolio presenta poco interesse. Siamo sempre a $76,80. Dicevo, i conti italiani, perché allora, se dall'America è arrivato un dato di vendita al dettaglio in rialzo, leggermente meglio del previsto, se la produzione industriale in Europa è stabile a luglio, in Italia già conosciamo il dato, e se la Germania ha confermato un export nei primi 6 mesi che è partito a raffica più 17%, però qualche altra notizia getta più ombre. In Germania l'indice che misura la fiducia dei consumatori e degli investitori è crollato, l'indice ZEW è crollato a settembre a meno 4 punti contro i 14 punti di agosto, però la cosa più importante per quello che ci riguarda sono i dati diffusi oggi dalla Banca d'Italia e dall'Agenzia delle Entrate. Allora, a luglio il debito ha fatto un altro record, 1.838 miliardi. Io ricordo però che il debito non è un problema necessariamente in termini numerici, ma è in realtà un problema di rapporto, cioè quanto debito hai rispetto al PIL che produci, per cui uno può anche aumentare il debito, ma se aumenta il PIL di più il rapporto va a calare. Per quello che riguarda le entrate fiscali, la Banca Italia segnala come nei primi 7 mesi siano calate del 3,4%, ossia 7 miliardi di euro in meno. Poi è arrivata la nota del Tesoro che dice, attenzione, c'è il Dipartimento Finanze e Ragioneria dello Stato, la flessione è imputabile al minor versamento registrato a febbraio 2010 dell'imposta sostitutiva su interessi e altri redditi da capitale, e poi a venire in meno di entrate una tantum. Se si levano le entrate che erano state fatte nei primi 7 mesi del 2009 una tantum, a quel punto praticamente il calo delle entrate è dell'1,3%. Cosa è aumentato? L'IRE, l'imposta sul reddito, ha avuto un incremento di 2 miliardi di euro, più 2,3%. grazie al buon andamento del gettito delle ritenute da conto e versate dai lavoratori autonomi. Poi bene anche l'IVA, più 4% nei primi 7 mesi. Sono invece calate dell'1,5% le entrate degli enti locali a 20 miliardi, ma sono andati bene anche gli incassi della lotta evasione, più 10%, ossia 2 miliardi e 880 milioni di euro, il gettito da ruoli, una crescita di circa 266 milioni di euro. E poi il super enalotto. Allora, tra gennaio e agosto i giochi hanno portato nelle casse dello Stato quasi 6 miliardi e 300 milioni di euro, una mezza finanziaria, con un giro d'affari che ha superato i 40 miliardi di euro. Tra l'altro il super enalotto fa parte del leone, metà del gettito arriva da lì. E poi anche ci sono stati 5 concorsi di settembre per un totale di 1 miliardo, però in termini assoluti, e questo insomma, dovrebbe far riflettere, sono le new slot, immagino le new slot machine, presumo, a fare da padrone, perché valgono l'altra metà del comparto giochi, anche se hanno un'aliquota del 12,5%. Hanno raccolto 20 miliardi di euro, circa 2 miliardi e mezzo il gettito. Punto, però decidiamo se lo Stato deve limitare il gioco d'azzardo o il gioco in generale, oppure a questo punto anche a aprirlo, visti questi incassi. Comunque, è terminata invece l'attività degli osservatori sul credito istituiti presso le prefetture. Devo dire che nessuno si era accorto della loro esistenza, ahimè non sono serviti a praticamente nulla mettere nella prefettura l'osservatorio sul credito per capire se le banche stavano o meno strangolando gli imprenditori, non dando, non erogando credito. Comunque oggi è terminata un'attività che, se mi passa la battuta, non era mai nata. Allora vedo molti messaggi sulla Cina, adesso ne parliamo. Alcuni mi chiedono se mi sto spostando parecchio a sinistra. Veramente il tema degli errori fatali è un tema di un libro di Giulio Tremonti, lo dico per onore di cronaca, in cui metteva in evidenza, allora non era ancora ministro dell'economia, i rischi di un'invasione cinese. Ed è anche vero che Prodi tuttora mantiene grossissimi rapporti con la Cina, ebbe un approccio diverso. No, nessuno spostamento da nessuna parte. Il punto è un po' diverso. Un conto è, e l'abbiamo raccontata molte volte, la Cina come opportunità, andare in Cina, capire che lì c'è un mercato enorme che salverà in molti casi le imprese italiane. Altra cosa è vedere come è stata gestita a livello di ingresso nel mercato europeo l'invasione di prodotti cinesi, se insomma questo paese vuole anche accorgersi che il 98% delle imprese sono piccole. Lo dico per quello che riguarda il governo e anche l'opposizione, perché qui quando sono grandi le imprese sono tutti molto attenti, capiamo anche perché, potere di lobby, possiedono anche i giornali, hanno un grosso peso nelle associazioni. Quando le imprese sono piccole, e sono la maggior parte, ci si dimentica di che cosa fargli fare nel frattempo questi dipendenti se le merci a basso costo arrivano tutte quante dalla Cina. E comunque non è un'opinione netta la mia, io sono d'accordo che la Cina abbia portato 300-400 milioni di poveri fuori dalla soglia di povertà e che abbia abbassato i costi notevolmente di molti prodotti anche per noi italiani. Bisogna capire come si è governata o non governata questa globalizzazione. Quanto ai poveri, lasciatemi chiudere su una ultima notizia, perché c'è una buona notizia oggi, i nostri GR già la ricordavano, arriva dalla FAO, una buona notizia per modo di dire, ma insomma la prendiamo come tale, per la prima volta da 15 anni gli affamati del mondo sono scesi sotto il miliardo di persone. Ed è dovuto alla crisi questo calo, ossia la discesa dei prezzi alimentari dopo i picchi del 2008, e poi alla crescita economica dell'area asiatica, al traino di Cina e India. Vedete che poi la globalizzazione è uno svantaggio per noi, ma è un grosso vantaggio per chi mangiava un pugno di riso prima, attenzione. E secondo la FAO comunque praticamente l'obiettivo di portare a 400 milioni di persone gli affamati nel mondo è ancora molto molto lontano. Va bene, partiamo col primo tema, anzi facciamo una cosa, colleghiamoci subito con Vincenzo Miglietta perché vedo molti messaggi sul, su, giustamente sullo sciopero dei benzinai. Chi ci scrive dove sono i prodotti a basso costo sta sognando. Ragazzi, quando andate a comprare H&M, Zara e tutte le grandi catene a basso costo, quella roba lì è tutta prodotta in Cina, cioè se qualcuno trova un giocattolo per bambini, un capo d'abbigliamento a basso costo non prodotto in Cina o in Turchia, per me mi piace solo la Cina, o in Vietnam, mi faccio uno squillo. Di questo stiamo parlando quando si dice che l'inflazione è rimasta pari a zero in questi anni, anche negli anni del boom, perché praticamente la manifattura del mondo è stata trasferita in Cina, in India, in Vietnam, con un costo di produzione che qua in Europa e in America ci sogniamo. Questo ha permesso di mantenere l'inflazione sotto controllo anche durante la crescita economica dal 2000 al 2009. Altrimenti avremmo avuto un'inflazione molto alta. Il problema è come si è governato un passaggio, anche perché di mezzo ci sono famiglie, persone e storie del territorio. L'impresa è territorio. Comunque ne parliamo fra un'ora, non posso anticipare tutto il tema. Vincenzo Miglietta è in collegamento con noi dal Ministero perché sta seguendo l'incontro tra le associazioni di categoria, appunto, che hanno minacciato, anzi ormai è una certezza, partirà lo sciopero alle 22 dei benzinai italiani. Il Ministero dello Sviluppo Economico, non c'è il Ministro ma c'è Vincenzo Miglietta. Buonasera Vincenzo. Sì, buonasera, diciamo subito che al momento non ci sono novità, si sta tentando un'ultima mediazione per scongiurare lo sciopero di 3 giorni indetto dai sindacati di settore e in mancanza di un accordo, lo ricordavi da studio, la serrata scatterà già questa sera dalle 22 in autostrada e domani mattina nel resto della rete di distribuzione. Al tavolo non c'è il ministro ma partecipa il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia con delega all'energia e poi Fed Confesercenti, Fegica e Figis Confcommercio. E lo sciopero, hanno spiegato i gestori, è stato proclamato contro la politica soprattutto delle imprese petrolifere che tende a ridurre il numero di impianti serviti presenti sul territorio. Il rischio, denunciano i sindacati, è che 25.000 gestori e 75.000 addetti agli impianti perdano diritti e lavoro. I gestori ce l'hanno anche col governo contro il cosiddetto DDL sulla concorrenza, che punterebbe a dare maggiore spazio agli impianti fantasma, quelli in sostanza senza personale di servizio, che avvantaggerebbero quindi le grandi compagnie. Ecco Vincenzo, su questo a che ora dovrebbero chiudere secondo te, anche con un no, con un sì, perché questo è importante per capire se andiamo avanti fino alle 8, fino alle 8 e mezzo, alle 9 e mezza di sera, cioè mezz'ora dalla chiusura, dall'inizio dello sciopero. Sì, io spero che entro la Focus Economia riusciamo a dare una notizia nel senso, in un senso o nell'altro. Ah, dici entro le 18:30? Sì, assolutamente. Va bene, quindi non c'è il ministro perché ancora devono nominarlo, ma c'è Stefano Saglia, bravissimo sottosegretario alle attività produttive, come si chiama una volta, lo sviluppo economico. E allora partiamo anche col Toto Ministro, che è un appuntamento che abbiamo lanciato ieri. Vincenzo, vuoi votare anche tu chi dovrebbe essere Ministro dello Sviluppo Economico secondo te? Ma secondo me almeno qui al Ministero lo danno da un po' di giorni sempre in pole position il Vice Ministro Romani. Consideriamo che però la nomina del nuovo ministro, ma lo hai ricordato te più volte, è legata molto al momento politico e ai rapporti tra Berlusconi e i suoi alleati. Ok, quindi per te dovrebbe farlo Romani, no? Sì. Va bene, quindi un voto per Romani. Grazie Vincenzo Miglietta. Vediamo come va la nostra classifica, il Toto Ministro. Allora, ce ne sono tanti in testa, la Presidente di Confindustria, il Ministro all'Economia, il Governatore della Banca d'Italia, anche l'ex Presidente di Confindustria Montezemolo, poi c'è chi ha votato anche lo stesso Sottosegretario Saglia e vari altri nomi. Noi continuiamo, 349-238-6666, votate chi vorreste come Ministro dello Sviluppo Economico, poi quando arriverà il nome noi vi daremo la nostra personale classifica, magari inviteremo anche chi ha vinto la nostra personale classifica per quello che riguarda il nome del ministro, che ripeto ormai manca da 132 giorni, vado a memoria, e con numerose promesse. Ricordo che Paolo Romani fu già indicato a luglio vi fu un nemmeno tanto sotterraneo veto del Quirinale per il ruolo che aveva nella vicenda Mendes. Staremo a vedere comunque. Primo tema adesso invece i pedaggi della rete ANAS e i pedaggi del grande raccordo anulare di Roma. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, ricordate tutti la vicenda: dentro la manovra finanziaria correttiva c'erano degli incassi che dovevano derivare dai pedaggi sul grande raccordo anulare, sulle reti gestite direttamente dall'ANAS. Poi praticamente il Consiglio di Stato lo scorso 1° settembre ha bocciato i pedaggi introdotti, ha accolto il ricorso della provincia di Roma e di Pescara, di fatto bloccando tutto. Ieri ci eravamo incuriositi perché praticamente è uscita sulla Gazzetta Ufficiale, è uscito il bando di gara per la fornitura, la messa in opera di un sistema di pedaggiamento sulle autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta. Cioè il Consiglio di Stato blocca quella misura, ma nel frattempo sulla Gazzetta Ufficiale si va avanti a indire la gara per chi dovrà poi mettere il video pedaggiamento, così si chiama in gergo, nei caselli ANAS, le autostrade in concessione diretta, ma anche i raccordi autostradali, e tra questi quindi anche il grande raccordo autostrada di Roma, là dove il sindaco Alemano disse sarebbe arrivato lui a sfondarlo il casello direttamente. Nuovo sviluppo, perché oggi il vice ministro alle infrastrutture Roberto Castelli, che se ne intende non solo di infrastrutture ma anche, diciamo, di quello che riguarda la dinamica di queste decisioni, ha detto, insomma, ma in questi giorni sta montando il fronte romano contro il pedaggiamento del raccordo anulare. Tutto ciò è veramente incomprensibile. Allora, Roberto Castelli è qui con noi in collegamento. Buonasera, viceministro. Buonasera. Mi sa però che fra poco la interromperemo, perché mi sembra che stiano arrivando novità dall'incontro tra il governo, lo sviluppo economico, Ministero dello Sviluppo Economico e i benzinai. Viceministro, perché le dice che è incomprensibile? A parte che c'è una sentenza del Consiglio di Stato, ma insomma, prego. Per due motivi. Beh, intanto io ricordo una cosa banale, ma che evidentemente va ricordata. Le leggi in questo Paese, la Costituzione vigente le fa il Parlamento, non le fa il Consiglio di Stato. Quindi il Consiglio di Stato è intervenuto su un atto amministrativo, non sulla volontà del legislatore. Quindi questo va detto, altrimenti sembrerebbe che la volontà del Consiglio di Stato fa premio sulla volontà del Parlamento. Fortunatamente non è ancora così. Ma sostanzialmente la vicenda è paradossale per due motivi. Uno è il motivo di giustizia. Non si capisce perché alcuni cittadini italiani stupidi debbano pagare le tangenziali e altri cittadini italiani più furbi invece non le debbano pagare. Su questo abbiamo avuto modo di parlarne più volte. Invece io vorrei sottolineare un altro aspetto che è ancora più grave, che dimostra la arretratezza in cui versa questo Paese, soprattutto una certa classe dirigente. Quante volte anche sulle onde di Radio 24 si è parlato di project financing, di partecipazione, di partenariato pubblico-privato, di partecipazione dei privati alla costruzione delle grandi infrastrutture. Ora, il dato sottostante fondamentale per l'apporto dei privati in qualsiasi infrastruttura è il fatto che i privati poi devono avere un ritorno degli investimenti che fanno, e questo ritorno sostanzialmente avviene attraverso l'esazione dei pedaggi. Quindi la pretesa di avere strade di questa natura totalmente gratuite è assolutamente, fa parte di una cultura passatista, fa parte di una cultura che non è moderna, che impedisce lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Questo direi che è il dato ancora più negativo. Ma lei immagini un grande fondo, per esempio pensioni anglosassone, come ce ne sono in giro per il mondo, che investono in infrastrutture, come pensa siano invogliati a venire a investire in un Paese in cui un legislatore prevede appunto l'esazione di alcuni pedaggi e poi c'è un organo che può essere il Consiglio di Stato, sì, oppure il sindaco di una grande città che va in giro con l'automobile a sfondare i caselli per impedire questo dato. È ovvio che poi non vengono a investire nel Paese. Direi che questo è ancora il fatto ancora più grave, che va anche al di là della profonda ingiustizia che fa sì che i cittadini di Napoli e Milano paghino il pedaggio e quelli di Roma non si capisce il nome di quale investitura divina, invece no. Allora, ho capito, la prima obiezione è molto chiara. Sulla seconda, sì, è vero, va anche detto, Vice Ministro, che legare anche gli investimenti della società che gestisce in concessione, pensiamo a Autostrade per l'Italia, a poi pedaggio è una cosa molto importante. Spesso abbiamo visto le società guadagnare dal pedaggio e investire con più lentezza. Però la vorrei su questo tema ancora, perché vorrei capire cosa succederà poi dopo la decisione del Consiglio di Stato, e lei da ex Ministro della Giustizia, diciamo, conosce i due fronti. Prima però dobbiamo ricollegarci con il Ministero dello Sviluppo Economico, dove c'è Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buonasera di nuovo. Sì, buonasera. Di nuovo la novità è che lo sciopero è stato revocato. Oh, non abbiamo ancora dettagli, ma la notizia è questa, quindi da questa sera, ma per i prossimi giorni non ci saranno blocchi. Si sa come mai, perché loro chiedevano appunto una garanzia sugli occupati, cioè, che cosa hanno ottenuto in cambio? Allora, mancano dell'ufficialità, ma sembra che la leva per raggiungere un'intesa sia stata quella di garantire degli sgravi fiscali che sin dal 2008 facevano parte di un protocollo che firmò l'allora ministro Scajola e che erano stati messi in dubbio recentemente. Sarebbero degli sgravi che permetterebbero di mantenere dei margini di guadagno per i cosiddetti padroncini che hanno i distributori più piccoli e che quindi permetterebbe di mantenere a loro volta anche dei dipendenti e poter continuare ad avere dei margini di guadagno per sopravvivere. Loro dicono per sopravvivere, ma comunque per avere i loro guadagni rispetto alle grandi compagnie petrolifere che gestiscono direttamente i distributori sul territorio. Beh, no, ci fa piacere quando si arriva un accordo, quindi lo dico anche che gli automobilisti in ascolto, nessuna fila oggi stasera alle stazioni di benzina. Grazie Vincenzo Miglietta. Vice Ministro, due minuti di pazienza, abbiamo un metro alla pubblicità, poi vorrei capire come pensate, cioè, che comunque c'è una decisione del Consiglio di Stato, quindi questa farà poi testo o il bando pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale vuol dire che comunque andate avanti con l'ipotesi di far pagare anche, diciamo, al centro Italia e al sud quello che già in molti casi si paga al nord, e quindi raccordi autostradali e diciamo, grandi raccordi metropolitani. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:38 minuti, nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso vorrei concludere l'appuntamento con l'approfondimento con il Vice Ministro Roberto Castelli, poi passare ad altro. Un messaggio lo devo dare a chi scrive al 349-238-6666. Lo sciopero è stato sospeso, molti di voi sono in coda per fare il pieno, altri scrivono che c'è più coda per fare il pieno che in tangenziale. È stato sospeso. Poi c'è chi inspiegabilmente dice: ah, che disgrazia, avevo appena fatto il pieno. Ho capito, ma tanto lo usi, non è che io non capisco certi messaggi. Allora, Vice Ministro, due messaggi che arrivano per lei. Uno: va bene pagare i pedaggi, raccordi tangenziali, però con servizi, corsie degni del resto d'Europa. E qui anche un po' di polemica ogni tanto con chi ha le autostrade in concessione, potreste farla. E dall'altra parte invece la domanda che ho io è: c'è il Consiglio di Stato che però ha detto no, quindi? Allora dobbiamo entrare un po' nella tecnicalità, adesso cercherò di essere chiaro, anche se poi quando ci si perde nei commi e nei cavilli è difficile. Ma questa norma, che ripeto, è una norma di giustizia e di modernità, questo va detto, è stata introdotta con l'articolo 15 della manovra e si compone in due parti, cioè il governo dice l'ANAS deve appunto pedaggiare tutte queste, diciamo, tratte che sono 22 che ancora non sono pedaggiate, e quindi per farlo gli diamo tempo fino sostanzialmente alla fine del 2011, dove appunto metterà questi caselli free flow e quant'altro, sono la forma moderna di esazione. Ma che è il free flow? No, mi scusi l'ignoranza. Dunque, free flow vuol dire che non ci sarà più un casello in cui, con la sbarra in cui si paga, ma verranno rilevate le targhe delle auto e poi gli verrà mandato il conto a casa sostanzialmente, quindi non ci saranno intasamenti. Auguri per la privacy. Vabbè, auguri per la privacy, dicono. Adesso uno che paga al casello si sa che ha pagato. Va bene, andiamo avanti invece sulla cosa seria che mi interessa. E quindi la norma in realtà è questa, che fino adesso non è stata toccata da nessuno, e su questa che l'ANAS sta facendo le gare appunto per questi caselli. Quindi l'ANAS sta agendo sul comma 1 che appunto dice: cara ANAS, attrezzati per la fine del 2011 per poter fare questa cosa. Il comma 2 diceva: durante questo periodo, quindi con una norma transitoria, comincia da subito a aumentare i pedaggi laddove i caselli ci sono, ma diciamo, quindi tu fai l'esazione laddove c'è già un casello. Quindi sostanzialmente la manovra era in due tempi: un tempo transitorio sul quale si è espresso il Consiglio di Stato e quindi l'ANAS, diciamo coerentemente alla sentenza del Consiglio di Stato, adesso ha fatto marcia indietro, ma il comma 1 vive, quindi sta andando avanti e l'ANAS si sta attrezzando su questa che è una norma di legge. Verrà aggredita anche questa? Può darsi, perché il tutto avviene attraverso un atto amministrativo e quindi cade sotto la giurisdizione del TAR e del Consiglio di Stato. Bisogna riscrivere la norma in modo che non possa essere aggredita né dal TAR sostanzialmente. Ecco, ma poi i proventi di questo incasso vanno al governo centrale? O no, vanno all'ANAS, e qua c'è un'altra questione ancora molto moderna, perché con questi proventi ed altri proventi che noi abbiamo individuato, l'ANAS arriverebbe a, secondo i criteri, quindi a incassare risorse proprie, e quindi secondo i criteri dell'UE uscirebbe dalla contabilità pubblica, con grandissimi vantaggi sia per l'ANAS sia per i conti pubblici nostri. Quindi veramente questa battaglia è una battaglia di retroguardia che condanna il nostro paese a essere un paese di serie B, perché io ricordo che i pedaggi in questo momento li stanno mettendo in tutto il mondo. Vabbè, laddove non venivano messi, come in anche Germania. Anche in Germania stanno cominciando a introdurli. Adesso sono introdotti per gli autocarri, ma io prevedo che entro qualche anno verranno introdotti dovunque, perché voglio dire, il project financing, cioè costruire infrastrutture che poi si ripagano attraverso appunto la tariffazione, in questo caso i pedaggi, è la norma moderna che viene fatta in tutto il mondo. Noi ci distinguiamo ancora per le battaglie di serie B. Allora, va bene, ci distinguiamo anche per altre cose. Vice Ministro, mi dà in conclusione il suo nome? Stiamo facendo questo toto ministro in attesa che arrivi il Ministro dello Sviluppo Economico. No, non può sfuggire nemmeno lei. Mi deve dare, intanto vorrebbe essere lei Ministro dello Sviluppo Economico? No, io faccio quello che mi viene detto di fare. Ecco, va bene. E lei chi vedrebbe bene? Visto che ci sono. Io non posso indicare i nomi in casa d'altri. Il nostro segretario federale ha dichiarato più volte che questa nomina di competenza del primo ministro Berlusconi, quindi noi ci adegueremo a quanto lui vorrà indicare. Ma un nome fuori dal governo non me lo vuole dare, no? Ma no, sono tante le persone che secondo me possono adeguatamente coprire questa carica. Dico solo una cosa. Al di là dei nomi, mi sembra che gli si stia dando un'importanza così formale che va al di là di quello che poi in realtà un ministro dell'industria, sia pur così importante, può fare. Non è che possiamo cambiare. Ma una volta che diamo importanza a un ministro. No, questo non ammetto nessuno. Però una volta che diamo importanza a un ruolo, a un ministro, dovreste essere contenti, perché poi dice sempre che invece qui stiamo dando importanza a lui, al presidente della Consob, vogliamo anche quello. Che anche quello manca, sono due ministri di indirizzo fondamentali, fermo restando, ogni volta l'ottimo lavoro che stanno facendo Stefano Saglia e Adolfo Urso, che hanno in mano in questo momento la parte assenza del ministro. Quindi non arriva il voto di Castelli, lei però è stato votato, ha un voto per ora, così svelo una cosa. Sì. Ringrazio. Ecco, non da me, però siamo qui, gli ascoltatori l'hanno votato. Ringrazio chi mi ha votato. Grazie due voti mi fanno accendere la regia, siamo a due voti, adesso però stacchiamo, sennò fra un po' la candidiamo. Grazie al vice ministro Roberto Castelli. Buonasera. Allora, il meno tasse per tutti, volevate sapere, ma ascoltate, il problema qui è che questo aumento dei pedaggi era previsto nella manovra correttiva. E da qualche parte questi soldi dovranno arrivare, perché insomma sono soldi per i conti pubblici. Sul meno tasse, ma insomma non è che devo fare le domande, lo vedete tutti voi in busta paga, non ci sono meno tasse, è una balla colossale, lo sapete tutti. Così come le addizionali sono sempre belle alte, IRPEF, perché non c'è stata nessuna riduzione della pressione fiscale. I sindacati CISL e UIL faranno una manifestazione l'8 o il 9, vado a memoria, di ottobre, proprio per chiedere una politica fiscale per far ripartire l'economia. Detto ciò, adesso c'è il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Lo sciopero dei benzinai è stato revocato, quindi lo continuo a dire a chi scrive. Non c'è bisogno di mettersi in coda per andare alle pompe di benzina. Praticamente, per quello che riguarda invece i pedaggi, insomma, l'avete sentito, il viceministro ha detto che è un elemento di modernità pagare il pedaggio. Ne prenderà atto, immagino, anche il sindaco di Roma, che su questo ha dato una posizione durissima. Di nuovo in diretta. Allora, vedo molti messaggi su Consob. Ministro, lo sviluppo economico gli si dà troppa importanza, ha detto poco fa Castelli. Insomma, c'è un'evidente difficoltà nel governo, dai, non giriamo attorno alle cose, se no non stai per 131 giorni senza un ministro dello sviluppo economico. Dai un nome, grosso, non grosso, e questo nome arriva, fine. Evidentemente gli equilibri sono così fragili che non si riesce nemmeno a nominare ministro. Non sono d'accordo con chi scrive, visto come funziona la Consob adesso, che fretta c'è di un nuovo presidente. Che la Consob non sia stata questo faro, mettiamola così, per essere buoni in questi anni di Cardia, l'abbiamo detto anche quando Cardia qua a Milano ha salutato, abbiamo fatto un saluto della gestione Cardia, che più critico non si può, a rischio quasi querela. La Consob non c'era in molti casi, non abbiamo problema a dirlo, e i casi sono emersi sempre, sono prima scoppiati, poi è intervenuta la Consob. Ma detto ciò, non è che siccome funziona male bisogna eliminarla, bisogna prendere un presidente autorevole che la faccia funzionare bene. Giuseppe Vegas potrebbe essere l'uomo indicato venerdì, così diciamo ci dice qualcuno, mettiamolo in questo modo. 349-238-6666 per gli sms, la borsa. Allora, piatta la giornata, più 0,20 dopo un meno 0,4%, diamo un senso a questa borsa. Le banche hanno un po' ripiegato dopo la buona giornata di ieri dovuta all'euforia su Basilea 3. Parliamo di cose un po' più serie da un punto di vista di mercato, ma Ansaldo STS più 2,3%. E lo facciamo con Guido Maurino, che già stava partendo, prima ancora che lo salutassi, di Radio Corriere sulle 24 ore. Guido, buonasera. Buonasera. Prego. Niente, dicevamo di Ansaldo allora, che oggi ha guadagnato il 2,35%, le quotazioni hanno beneficiato delle stime diffuse ieri dell'Associazione Europea per l'Industria Ferroviaria, un'industria su cui Ansaldo conta molto. Diciamo che per il segmento appunto di riferimento di Ansaldo le previsioni parlano di una crescita del 3,3% medio anno nel periodo 2010-2015. In realtà si tratta di una revisione al ribasso, anche se comunque conferma un trend positivo per il mercato di riferimento di Ansaldo, e quindi oggi il titolo un po' ne ha approfittato. Ancora bene oggi, devo dire, Fiat, secondo miglior titolo, più 1,6%. Fiat oggi ha consolidato la sua... Qui c'è Marchionne che tra l'altro stanotte ora italiana incontra i vertici la rete di vendita di Fiat in America, se ho ben visto. Sì, 1700 concessionari statunitensi della Chrysler, appunto, a cui presenterà i nuovi modelli che saranno lanciati sul mercato degli Stati Uniti, presenterà anche i modelli come la 500 che verranno portati negli Stati Uniti. C'è anche che d'altra parte l'attesa per l'appuntamento di giovedì, quando l'assemblea straordinaria di Fiat sancirà la separazione del business dell'auto dalle altre attività del gruppo. Allora, questo per quello che riguarda Fiat. Andiamo sui titoli più sottili. Oggi la giornata, se no, è, come dicono in finanza con un inglesismo, un po' pallosa. La Roma Calcio più 7,3%. Sì, c'è stato appunto questo balzo della Roma Calcio. A spingere il titolo è l'interesse arrivato dalla Russia da parte del magnate della Lukoil, Leonid Fedum, che sarebbe pronto a mettere con soldi suoi, non con soldi della Lukoil, 200 milioni di euro nella Roma. D'altra parte anche oggi il vice amministratore delegato di Unicredit Paolo Fiorentino ha confermato che è stata avviata la procedura di vendita per la Roma, che si procederà d'intesa con la famiglia Sensi e che sostanzialmente ieri c'è stato un primo incontro per valutare le oltre 20 manifestazioni di interesse che sono arrivate per il club giallorosso. Allora, il peggiore invece è Philips, meno 4,7, Ratti meno 4,5, Nokia meno 3%, tra chi è andato bene anche le Gemina più 5,4, Pirelli Real Estate più 3,7, Stefanelli più 3,5, tra chi ha perso invece segnaliamo Fondiaria Sai meno 1,6. Novità su Fondiaria? No, nessuna novità, diciamo il titolo aveva... si era comportato abbastanza bene nelle prime sedute di settembre e ha ripiegato oggi con tutti i finanziari perdendo un po' più degli altri. Deboli gli altri titoli tra cui Eni, Mediolanum, Campari con cali tra lo 0,3 e lo 0,4%, bene invece oltre a Telecom più 1,3, anche Parmalat più 1,1, Estimacroelectronics più 1, CIR più 0,70 come in pregilo. Finmeccanica, Azimut, Prismian e Saipem, ma anche Mediaset guadagnano mezzo punto percentuale e così fa Exor. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, vedo che molti continuano a votare, ci fa piacere, per il nuovo ministro dello sviluppo economico. Volete sapere chi è Giuseppe Vegas, uno dei papabili per diventare prossimo presidente della Consob? È uomo molto vicino a Giulio Tremonti, anche perché è sottosegretario al Ministero dell'Economia, nostro ospite più volte, persona, devo dire, per quello che conta il nostro giudizio, molto molto preparata. Detto questo, continuano alcuni ascoltatori a buttarle in politica, doveva chiedere a Castelli com'è che alzano le tasse invece che abbassarle. Allora, abbassare le tasse con la più grande, non mi fate difendere il governo, ma abbassare le tasse con la più grande crisi economico-finanziaria degli ultimi 50 anni era un po' duretta. Altra cosa è stata la gestione della comunicazione di questa crisi, continuare a dire che la crisi non c'era, che poi era finita presto, che poi tutto andava bene, madama la marchesa, questa è un'altra cosa, ma insomma la tenuta dei conti pubblici era prioritaria. Adesso però c'è il GR, poi parliamo di cosa è successo a un distretto modello, quello che il New York Times ha definito la più grande concentrazione di cinesi in Europa, che sta danneggiando la qualità del Made in Italy. New York Times di ieri, il riferimento è a Prato, ci risentiamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, due notizie d'aggiornamento e poi passiamo all'ultimo tema, che è un tema molto delicato perché, come anticipato, insomma, la globalizzazione non si può né rifiutare né ostacolare, però si può gestire. Due notizie in breve. È arrivato un nuovo record storico dell'oro, era nell'aria da settimane, $1,269 l'oncia Troy, quella che serve per l'oro, vale 31 grammi. E poi invece il dollaro, che continua a scendere adesso nei confronti dell'euro, a quota 1,3014. Sono circolate voci per cui la Federal Reserve avrebbe o si starebbe preparando a rilanciare prima della fine dell'anno gli acquisti di titoli di Stato americani. E il dollaro sta perdendo con tutte le valute, con lo yen a 83 e appunto con l'euro a quota 1,30. E allora parliamo adesso di un tema, affrontandolo con uno scrittore, che ci deriva da una notizia di cronaca molto molto semplice. Ieri il New York Times è uscito con una lunga inchiesta in prima pagina sulla comunità cinese di Prato. Cosa ha scritto il New York Times? Ha detto in sostanza, dopo aver ricordato che a Prato c'è la più grande concentrazione di cinesi in Europa, ha detto: la produzione cinese di articoli d'abbigliamento ha offuscato la distinzione tra Made in Italy e Made in China. gli immigrati cinesi hanno trasformato il centro tessile di Prato in una capitale della produzione di vestiario a basso prezzo, arricchendo molte persone, diffondendo risentimenti e facendo scattare una serie di interventi delle autorità. E fin qua la sapevamo anche noi. La cosa interessante è quando il New York Times dice: favoriti dalla debolezza delle istituzioni italiane, dall'alta tolleranza per l'aggiramento delle norme, i cinesi hanno offuscato il confine tra Made in China e Made in Italy, danneggiando la capacità dell'Italia di puntare sul mercato di alta qualità. E sarà musica per le orecchie di Edoardo Nesi, che ringrazio per essere in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera. Allora, lei è autore di un libro, di vari libri, uno lo portiamo già in trasmissione, molto bello, L'età dell'oro, in cui già veniva elencato l'età dell'oro degli anni 80 e 90 in un'Italia, in una Prato del 2030, ormai abbandonata anche dai cinesi, in cui le volpi e i daini erano scesi nelle fabbriche. E poi un libro più recente invece, che si chiama Storia della mia gente, la rabbia e l'amore della mia vita da industriale di provincia, perché lei prima che scrittore è stato industriale di una famiglia, generazioni del tessile pratese, ed è un atto di accusa durissimo su come siete stati lasciati soli, abbandonati alla globalizzazione, che tutti economisti e politici hanno abbracciato in maniera a suo avviso sconsiderata. Lo dico perché scrivono alcuni ascoltatori, dicono: ma insomma anche noi nel distretto di Valenza e in altri distretti siamo piegati dalla concorrenza dei costi cinesi. E lo dico perché una volta tanto affrontiamo il tema di come si protegga anche l'identità della nostra impresa con uno scrittore oltre che ex imprenditore. Un passaggio del libro in cui, voglio dire, lei indica il momento in cui per voi è cambiato tutto, dall'età dell'oro all'età, diciamo, nera della chiusura di quasi il 50% delle fabbriche. Chissà se c'è mai stato un momento, un'ora, un giorno in cui si è raggiunto l'apice delle nostre vite economiche e da lì in poi i nostri sogni sono diventati chimere, i nostri successi privilegi, il nostro futuro una quantità immaginaria. Chissà se è possibile puntare il dito e indicare una data da ricordare e raccontare ai nostri figli e alle nostre figlie come il giorno in cui tutto ciò che era sempre andato bene ha cominciato ad andare male. Si può provare, però. Basta frugare nella memoria. Durante gli anni 90, subito prima che la Cina entrasse nel WTO e ai suoi prodotti fosse concesso di invadere l'Occidente come un'onda di piena, i nostri politici giravano il mondo sorridenti a firmare accordi che avrebbero minato la prosperità dell'Italia, spalleggiati dai nostri economisti che approvavano e incoraggiavano, ripetendo in ogni intervista il dogma bambinesco che la totale liberalizzazione degli scambi commerciali avrebbe portato al mondo, a tutto il mondo, senza distinzioni, molti più vantaggi che svantaggi. Dicevano che i consumatori mondiali ed europei e italiani avrebbero risparmiato un mucchio di soldi con la globalizzazione, perché i prezzi dei beni di consumo, come l'abbigliamento, i computer, le lavatrici, i televisori, i lettori DVD e mille altre cose, essendo prodotti in Cina e da lì importati liberamente, senza più né dazi, né tariffe, né contingenti, sarebbero calati molto, moltissimo. Un mondo governato dai dogmi e dall'arroganza intellettuale degli economisti, i quali ogni giorno si lanciavano, e ancora incredibilmente si lanciano, a predire il futuro come gli sciamani o i santoni o i profeti, come i veggenti, i cartomanti, gli invasati, come le streghe e i maghi e gli aruspici. Questi signori prevedono il futuro, evidentemente ignoranti dell'antica lezione del Guicciardini, che dalla Firenze del Rinascimento ammoniva che de futuri contingenti non v'è scienza. E sbagliavano, naturalmente, perché non andò come dicevano loro. I cinesi non corsero a comprare il Made in Italy, ma a produrlo. E ai primi ovvi scricchiolii del nostro sistema industriale e manifatturiero, quando qualcuno cominciò timidamente a indicare l'aumento dei fallimenti e dei licenziamenti e delle richieste di cassa integrazione, gli economisti aggrottarono le sopracciglia e dissero che forse c'era ancora in giro qualche luddista che non si era accorto che ormai si vive in un unico mercato globale, che bisognava svegliarsi e smettere una volta per tutte di fare le cose che fanno i cinesi, che era ora di aumentare la qualità e collocarsi nelle nicchie di specializzazione. Ci dissero che bisognava fare come la Ferrari, come Giorgio Armani. Allora, la rabbia, la pancia, Edoardo Nesi, che effetto le ha fatto leggere sul New York Times di ieri in prima pagina quello che lei, insomma, sostiene con molta più pancia e viscere nel suo libro? Sarà una blusone, questa è la mia dimensione, no. Del peso, spero, presumo. No, un attimo perché la sentiamo molto male. Allora, mi sente? Sì. Prego. Sarà una allusione alle mie dimensioni, al mio peso, questa storia della pancia, vero? No, un attimo. Facciamo una cosa, riprendiamo il collegamento perché la linea è disturbata, perché questo, mi interessa molto la sua risposta. Dopo il traffico cerchiamo di ripristinare la linea con Nesi, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, ecco, abbiamo ripristinato anche la linea con Edoardo Nesi. Dicevo, che effetto le ha fatto leggere sul New York Times un'analisi, appunto, molto anche economica, di cose che lei ha scritto molto più di pancia, di viscere, insomma, di cuore? Beh, è stata un'emozione molto forte, perché poi alla fine ti accorgi di come la grande stampa libera mondiale interpreti dei fenomeni che ti stanno vicini. E da una parte c'è l'orgoglio di aver in qualche modo forse tentato di aver ragione, dall'altra c'è la paura che questo sia vero davvero. Ecco, Nesi, però, insomma, l'età dell'oro nella vita è un'età in cui tutti eravamo più giovani, più belli, avevamo più successo, cioè sempre un po' di amarcord, ma insomma voi avete avuto una crescita, voi come altri distretti di questo paese, eccezionale, e eccezionalmente siete stati colpiti. Voglio dire, uno potrebbe dire, vabbè, ma non aveva ordinato mica il medico che tutti i distretti italiani dagli anni 80 crescessero a ritmi cinesi. Poi è arrivata la Cina vera e voi avete inesorabilmente rallentato. Cioè, che cosa si poteva fare contro un'ondata che è la storia con la S maiuscola, quella di Hegel, non è un problema di accordi commerciali? Beh, sì, questo è vero, però io mi chiedo se non era possibile far qualcosa dal punto di vista della politica, perché proprio in questi giorni, cioè, per esempio, ho letto questa notizia sulla Corea e su tutte le discussioni e l'opposizione che adesso l'Italia scopre di riuscire a fare, i veti che riesce a mettere sull'importazione di auto dalla Corea e di pezzi di ricambio. Ecco, e io non riesco a non confrontare questo comportamento, che viva Dio fino adesso c'è stato poco, ma fino adesso arriva, confrontarlo con quello che invece fa la politica tedesca da sempre in difesa della sua industria chimica e automobilistica, o i francesi fanno per i loro allevatori, o gli scandinavi che vogliono tenersi per forza il loro stato sociale, quindi non entrare neanche nell'euro. Insomma, mi sembra tu un esempio di serietà assolutamente diversa, perché poi a cambiamento delle maggioranze politiche, delle visioni politiche, non cambiava mai questa difesa forte degli interessi dello Stato in questi altri paesi. Sì, a me sembra, avendo letto il suo libro, che consiglio a tutti, consiglio soprattutto ai nostri politici di centrodestra e di centrosinistra, che parlano della piccola impresa ma la conoscono molto molto poco. C'erano dei passaggi bellissimi, non possiamo farlo ascoltare tutto, in cui la ricorda, ma insomma, noi non eravamo degli imprenditori tipo tedeschi, eravamo degli artigiani che con calma, con molto lavoro, con molto ingegno, con la valigia in mano, ci eravamo trasformati in imprenditori, però ancora fragili, piccoli, sottocapitalizzati. Però mi sembra di aver colto nel suo libro perlomeno la richiesta di una morte onorevole, se mi passa il termine, cioè la dignità di abbandonare un modello come quello che ha creato la ricchezza italiana. Stiamo parlando non della Fiat, della Telecom, dell'Eni, stiamo parlando del 98% delle imprese italiane sotto i 50 dipendenti. Ebbene, che se il modello deve cambiare, lo si cambi, diciamo, dando l'onore, la resa delle armi. Sentiamo questo altro passaggio del libro, 349-238-6666 per gli sms. Beh, Bisognava abbandonare la prosopopea e l'orgoglio gratuito e prendere atto d'essere i più deboli, i più esposti al ciclone dell'apertura dei mercati e di conseguenza, nel nostro interesse, proteggersi, sì certo, naturalmente proteggersi, con ogni mezzo, dal cavillo al cazzotto, dall'ostruzionismo alla carezza. E non ci si doveva vergognare di far arrivare a Bruxelles qualche treno speciale pieno di incazzati ogni tanto e farli scendere in piazza con gli striscioni a vociare tutta la loro rabbia, a darsi pace se rompevano qualche vetro dei palazzi dei grandi banchieri o se qualcuno finiva per assaggiare i manganelli della polizia belga perché era per una buona causa. Poi, certo, avremmo ammainato la bandiera lo stesso, come i luddisti, avremmo ammesso la sconfitta, ma forse avremmo ottenuto migliori condizioni di resa e staremmo meglio di ora e vivremmo in un'Italia diversa. Perché, come ormai dovrebbe essere chiaro persino ai nostri maggiori, così entusiasti di questa loro maledetta globalizzazione senza regole, i soldi che oggi risparmiamo comprando i prodotti cinesi sono quegli stessi soldi che servivano a pagare gli stipendi degli operai italiani, i mutui delle loro case, le loro pensioni, i loro ricoveri in ospedale, le scuole dei loro figli, le loro macchine e i loro vestiti, la loro vita, la nostra vita. Allora, resa onorevole di un modello, ho detto io Nesi, però insomma, la globalizzazione va presa tutta. Allora, quando faceva comodo agli italiani esportare in Germania, in America, perché noi eravamo i cinesi d'Europa, vi andava bene. Adesso, dalla notizia di oggi, la FAO ha scoperto che per la prima volta quest'anno gli affamati sono scesi sotto il miliardo, la prima volta da 15 anni. Questo perché, grazie alla discesa dei prezzi alimentari e grazie alla globalizzazione, decine di milioni di persone sono uscite dalla condizione della fame, in Cina e in India soprattutto. E allora come la mettiamo? È una bellissima notizia questa di oggi, l'avevo vista anch'io. Però vede, i politici italiani li eleggiamo noi e non si può venire per esempio qui a Prato a confrontare le difficoltà di un operaio pratese di oggi e chiedergli di compiacersi del fatto che in Cina e in Vietnam e in Bangladesh stanno meglio. Cioè è il ricatto questo vero della globalizzazione, quello di mettere i popoli l'uno contro l'altro. Io credo che ci doveva essere un modo di fare le cose, avrebbe potuto in qualche modo aiutare anche noi senza impedire questa crescita di ricchezza e la caduta della povertà in quei paesi. Insomma, il punto è sostanzialmente quello di avere qualcuno che lotta per noi, che cerca di difendere noi italiani della piccola industria. Sì, adesso noi la rinviteremo perché siamo in conclusione, però c'è un rischio che si corre, pur ammirando l'orgoglio della sua gente. Lei ha voluto fare un libro alla Scott Fitzgerald un po', ed è il rischio di chiusura. Ripeto, la globalizzazione con tutti i fenomeni si cavalca, si domina, non si respinge. E il rischio, glielo facciamo ascoltare in un pezzo storico di un film, il rischio dell'eccesso di protezionismo. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Qual è? Due, sia mia e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Scusi, sacco, doganiere. Scusi. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno. Adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Ehi! Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno. Io sono entrato e sono uscendo, no? Un fiorino. C'è uno entra e esce, sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Ragazzi, arrivederci. Senta. Ehi! Chi siete? Madonna! Cosa portate? Allora, Edoardo Nesi, siamo in conclusione e ci ha raggiunto anche Giuseppe Cruciani per la Patria Zanzara, il rischio protezionismo. Poi la riavremo ospite. Lei se l'è posto questo tema, che coi dazi torniamo all'Italia medievale? Sì, ma io non ci credo, dazi. Come Benigni e Troisi nessuno li ha saputi spiegare bene. Insomma, è veramente divertente questa cosa, ci avete fatto ascoltare. Però è anche vero che qualche altra possibilità ci doveva essere data, no? Insomma, non è vero che le imprese cinesi sono più efficienti delle nostre, agiscono senza regole sui mercati internazionali. Insomma, se si ristabilisse un pochino più di regole, secondo me le nostre aziende riprenderebbero forza. Allora, grazie Edoardo Nesi. Ministro dello Sviluppo Economico, lei chi vedrebbe? Così partecipa al nostro sondaggio? Io, dovrei farlo io naturalmente. No, deve essere giusto. All'approvazione di Giuseppe Cruciani. Il sondaggio è ancora valido, è 349-238-6666. Grazie Edoardo Nesi. Giuseppe, allora, noi qua parliamo di Cina, bellissima l'inchiesta del New York Times che ha detto, insomma, attenzione qua, ormai i cinesi di Prato vi hanno rovinato il Made in Italy, i tuoi temi. Parliamo soprattutto della campagna acquisti di Berlusconi, riuscirà oppure no a portare un certo numero di deputati dalla sua parte? Vedremo. Ma più o meno di 20. Per adesso mi sembra che sta fallendo questa campagna acquisti. Va bene, allora tra pochissimi minuti Giuseppe Cruciani con la Zanzara, da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, a tutti quelli che hanno scritto prometto che Edoardo Nesi tornerà ad essere nostro ospite. Radio 24, la passione si sente.